Liberi Dentro Eduradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città. Lunedì 29 novembre, buongiorno e bentornati di nuovo a tutte e tutti su Liberi Dentro Eduradio e TV, il programma che, come sapete, chi ci segue ormai da tanto tempo fa da ponte tra carcere e città. E io sono sempre Caterina Bombarda, la conduzione con Antonella Cortese, che saluto, buongiorno. Buongiorno Caterina, buongiorno a tutti. Alla conduzione di questa trasmissione, che apre sempre con le notizie del giorno. Si torna a parlare di ergastolo ostativo dopo la sentenza del 2019 dei giudici di legittimità, tra i quali anche l'attuale ministro della giustizia Marta Cartabia, che ha rinviato la decisione sulla questione dell'ergastolo al 2022. Tutti i componenti della Commissione Giustizia della Camera, tranne Fratelli d'Italia, hanno votato a favore della norma per modificare il testo di legge e, come molti di voi sanno, questa legge vide la luce nel 1992 all'indomani della strage di Capaci e così nacque il regime dell'ergastolo ostativo, che è diverso dall'ergastolo comune perché non permette quei benefici che in modo, diciamo, più naturale sono dati alle persone che collaborano con la giustizia. Quindi, dicevo, tutti i componenti, tranne Fratelli d'Italia, hanno votato a favore del testo, un testo base che appare un mosaico, diciamo, costituito da pezzi di proposte di legge con qualche aggiunta estrapolata dalla proposta elaborata dalla Fondazione Falcone. Quindi ora si attende la fissazione del termine per gli emendamenti. Quindi, Caterina, è stata trovata una mediazione? Sembra di sì. A dirlo è il deputato del Movimento 5 Stelle Mario Perantoni, che ha detto: abbiamo trovato una mediazione tra i valori espressi dalla consulta e la necessità di mantenere il rigore nei confronti dei boss mafiosi, che per loro è una questione, per tutti chiaramente è una questione molto urgente. Caterina, entro maggio prossimo, come dicevi tu prima, c'è la scadenza fissata dalla consulta sull'ergastolo ostativo, ma che cosa ci si attende in realtà? Ma tutto dipende dagli emendamenti. Saranno questi a migliorare o peggiorare la situazione a seconda dei punti di vista. Il testo di base poi sarà trasformato in una proposta di legge che poi sarà sottoposta alla votazione parlamentare. Una legge che di fatto entrerà in vigore, sarà fatta, ecco, nel maggio prossimo, con una scadenza fissata della consulta, che poi sarà pronta, è pronta già a rendere incostituzionale l'attuale 4 bis nella parte in cui prevede il divieto assoluto dei benefici per chi sceglie di non collaborare con la giustizia. Quindi, Caterina, la Corte Costituzionale si dovrà pronunciare anche per la liberazione condizionale, giusto? Eh sì, e anche qui ricordiamo che la nozione di ergastolo ostativo serve a distinguerlo dall'ergastolo comune, che ha tutta una serie di benefici, tra questi la liberazione anticipata, i permessi premio, il lavoro all'esterno, la semilibertà e ovviamente anche la liberazione condizionale, che è quella che scatta dopo aver scontato 26 anni di pena per il detenuto che dimostra un sicuro ravvedimento. E in questo caso la Corte Costituzionale si dovrà pronunciare per la liberazione condizionale. Per la consulta, l'esclusione del beneficio penitenziario della liberazione condizionale ai condannati all'ergastolo per reati di mafia e che non abbiano collaborato con la giustizia è contraria sia all'articolo 27 della Costituzione sia naturalmente alla Carta Europea dei Diritti dell'Uomo, l'articolo 3. Caterina, c'è anche da dire che l'ergastolo ostativo negli anni ha suscitato tante critiche a più riprese, in più momenti, forse per il pericolo di vanificare la finalità educativa della pena? Sarà per quello? È proprio così. La questione della costituzionalità è tornata diverse volte, fin dal 2003, poi è stata rigettata, ancora nel 2013, rigettata un'altra volta, forse anche per la paura, ecco, di fare un cambiamento in questo senso. Ritornando alla Commissione Giustizia, il testo base approvato contiene ancora diversi punti critici. Molti sono del Movimento 5 Stelle, che farebbero rischiare altre future condanne da parte della Carta Europea dei Diritti dell'Uomo. Tra quelli più discutibili c'è l'obbligo da parte del richiedente dei benefici di dimostrare congrui e specifici elementi concreti che consentano di escludere con certezza l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, e che il contesto nel quale il reato è stato commesso, nonché il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, tenuto conto delle circostanze personali e ambientali. Quindi è una questione molto complica ancora di più il testo questo punto, e quindi ha trovato contrari tutti i magistrati di sorveglianza auditi in commissione, compreso anche il presidente dell'ANM. Quindi si spera negli emendamenti migliorativi futuri per migliorare questo testo di legge e renderlo più semplice. Ma veniamo alla musica. Tutta la settimana siamo con Aretha Franklin, che è soprannominata la regina del soul, la cui voce è stata dichiarata ufficialmente una meraviglia della natura dallo stato del Michigan. La canzone che ascoltiamo oggi la conoscete tutti, è famosissima, è una canzone del 1967, Respect, e un aneddoto: era stata scritta da Otis Redding e parlava in origine del rispetto che chiedeva questo compagno da parte della partner. Lei lo riarrangiò completamente invertendo i sessi, quindi il rispetto del partner da parte della partner. Ascoltiamole insieme e torniamo sulle due radio tra pochissimo. Rieccoci, bentornati dopo la pausa musicale. Antonella, parliamo di notizie internazionali. Salta all'occhio la questione della Polonia, dove sono finiti i diritti primari. Caterina, hai centrato la domanda in realtà. A volte ci si chiede, ma dove sono finiti i diritti primari? Quelli che dovrebbero essere tutelati e curati con attenzione, perché basta così poco perché si sfilaccino e ci lasciano orfani delle nostre piccole grandi tutele, di cui noi neanche ce ne accorgiamo a volte. Il terreno dove oggi si gioca la partita dei diritti, uno dei tanti terreni ovviamente, è la Polonia, sul cui suolo prosegue la crisi ai confini fra Polonia e Bielorussia, dove restano ammassati centinaia di migranti che le autorità di Minsk hanno di fatto scortato sino al confine con il paese membro, appunto la Polonia, no? Paese membro dell'Unione Europea, dove i diversi tentativi di entrare illegalmente nel territorio polacco, tentati ovviamente dai migranti in Polonia, non sono andati a buon fine, anzi la Polonia è forte anche dei 15.000 militari che fanno un po' le guardie di frontiera dispiegati lungo tutto il confine. Ma proviamo a ricapitolare la situazione. Quali sono state un po' le tappe di questa crisi? Il 2 settembre 2021 la Polonia ha dichiarato lo stato d'emergenza nelle aree al confine con la Bielorussia, a causa del passaggio di migranti, ovviamente. Il provvedimento dovrebbe scadere il 1 dicembre, ma alcune restrizioni potrebbero restare ancora in vigore. A ottobre, infatti, il Parlamento polacco ha approvato una riforma del diritto d'asilo che consente alla polizia di frontiera di respingere i profughi, violando così il diritto internazionale. Altra tappa, il 7 ottobre i ministri dell'interno di 12 paesi dell'Unione Europea, li voglio citare tutti, Austria, Bulgaria, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Grecia, Ungheria, Lituania, Lettonia, Polonia e Slovacchia, hanno chiesto a Bruxelles di finanziare con fondi europei la costruzione di muri alle frontiere esterne. La commissaria europea agli interni e agli affari interni Ylva Johansson ha escluso questa possibilità. E il 14 ottobre il Parlamento polacco invece ha autorizzato il finanziamento di una barriera contro i migranti al confine bielorusso. Anche Lettonia e Lituania hanno annunciato la costruzione di recinzioni. 15 novembre l'Unione Europea ha deciso di espandere le sanzioni contro la Bielorussia. Lo stesso giorno la cancelliera tedesca uscente Angela Merkel ha avuto un colloquio telefonico con il presidente bielorusso Aleksandr Lukashenko. Il governo iracheno ha attivato il 18 novembre il primo volo di rimpatrio volontario da Minsk. Il 16 novembre la Guardia di Frontiera polacca ha usato gli idranti contro i profughi accampati oltre il confine. Abbiamo visto tutte queste immagini agghiaccianti, accusandoli di aver lanciato pietre contro gli agenti. Secondo le autorità polacche, da agosto ci sono stati 17.000 tentativi di attraversare il confine della Bielorussia. Antonella, tuttavia, almeno per fortuna, ecco, ci sono stati atti di solidarietà da parte di alcuni cittadini, le cosiddette lanterne verdi, no, in soccorso ai migranti. Sì, ti voglio raccontare che a Bononiki, che è un piccolo villaggio tataro nella Polonia orientale, a un passo da Kuźnica Brudzki, assurto agli onori della cronaca per essere stato in realtà il palcoscenico del dramma dei migranti medio orientali inviati da Minsk verso il confine polacco. Dicevo, in questo paesino la comunità musulmana ha aiutato i migranti, consegnando cibi, vestiti e beni di prima necessità. Uno dei rappresentanti della comunità musulmana locale ha detto che tutta la sofferenza che vediamo di queste persone, tutti questi bambini piccoli che soffrono, piangono, è semplicemente terrificante. Quindi cerchiamo di aiutare sia da una parte che dall'altra, perché la situazione è vergognosa sia per gli immigrati che per i nostri soldati, e questo lo dice il rappresentante della comunità musulmana polacca. E tra l'altro per la prima volta ha ospitato i funerali di uno dei migranti morti nel tentativo di attraversare la frontiera polacca. I cittadini siriani residenti in Polonia si sono recati a Bononiki per partecipare alle esequie, un viaggio che ovviamente avrebbero volentieri non fatto. Ci sono poi anche altri atti coraggiosi, l'hai detto tu prima, è una luce verde che brilla nel buio. La sua finalità è mostrare ai migranti intrappolati in quella terra di nessuno, che nelle case o negli edifici dove brilla quella luce i rifugiati possono chiedere aiuto e assistenza. Infatti l'avvocato Camille Siller ha avviato questo progetto e proprio per sostenere queste persone. Raccontaci brevemente da dove vengono questi profughi. Allora, guarda, di varie provenienze in realtà. Vengono dalla Siria, Congo, Camerun e altri paesi. Raggiungono Minsk per via aerea, soprattutto dalle località del Kurdistan iracheno, ma ci sono anche voli che partono da Beirut, Damasco e Amman, quindi di diverse provenienze. Ora, prima di passare all'intervista di oggi ad Alice Listuzzi del progetto Arcolaio, voglio lanciare una canzone, la canzone di Mario Biondi and Friends, che si chiama Show Some Compassion, e di compassione veramente ce ne vuole tanta. Ascoltiamola insieme. Pray every morning at the sun. sun will rise. Pray for the sailor on the high seas, and pray for his boatload of refugees. You're looking for an answer somewhere in the sky. Look a little closer, it's right before your eyes. You're waiting for a message written in the sand. You don't have to wait no more, just open up your hand. Show some compassion, open your eyes. Show some compassion, waste no more time. Show some compassion, open your eyes. Show some compassion, waste no more time. You can try to make it better, reach up from inside. Put your trust in someone, won't take you for a ride. You can drive a little slower, you don't have to get there first. The temperature is rising, and clean air's getting scarce. Show some compassion, open your eyes. Buongiorno a tutti. La scorsa settimana abbiamo introdotto insieme ad Alice Listuzzi il progetto Territori per il reinserimento, andando a definire esattamente in cosa consisteva il progetto e a quali persone era destinato. Oggi invece andremo a capire invece come le persone effettivamente diventano beneficiarie e quali sono anche i rischi e le maggiori difficoltà di questo progetto. Buona pillola! I beneficiari del progetto invece come possono interfacciarsi con voi? Cioè hanno delle richieste specifiche che solitamente vi fanno? Allora, i beneficiari appunto prima parlano, discutono diciamo dei propri bisogni, insomma dei propri desideri con la propria assistenza sociale di riferimento, quindi si interfacciano con noi in un secondo momento nel quale è già arrivata una prima analisi del loro bisogno. Però siccome si crea proprio un percorso insieme alla persona, può essere che i bisogni vengano fuori anche in un secondo momento. Per quanto riguarda le richieste che sono arrivate, diciamo, da quando è iniziato il progetto adesso, sono state le più disparate, sono state richieste di contributi economici per coprire i costi dell'affitto, contributi economici per poter provvedere al proprio anche vitto alloggio, insomma, e richieste soprattutto anche di accompagnamento educativo rispetto alla ricerca casa, rispetto alla ricerca lavoro, la valutazione o meno se attivare un tirocinio. Poi sono arrivate anche richieste di mediazione culturale e anche di inserimenti abitativi. Parlaci invece adesso, Alice, di quali sono i rischi e le difficoltà più grandi che si verificano durante il tuo lavoro solitamente. Allora, cioè i rischi e le difficoltà, cioè il rischio e la difficoltà principale che io individuo è quello di lavorare con persone che durante l'esecuzione di pena sono regolari sul territorio, ma che poi difficilmente, finita di scontare la pena, riusciranno a regolarizzarsi, quindi a ottenere un permesso di soggiorno. Quindi in queste situazioni tutti gli sforzi messi in campo dal progetto, ma anche e soprattutto della persona, la sua voglia insomma di rimettersi in gioco, spesso tutti questi sforzi vengono vanificati una volta che la persona finisce di scontare la pena, perché cade in un limbo burocratico tale per cui non può trovare un lavoro, non può fare una richiesta per una casa, non può anche, cioè non è legittimato a poter fare nessuna cosa regolare sul nostro territorio, e questo purtroppo fa sì che la persona cada inevitabilmente dentro lo stesso circuito che l'ha portata a commettere il reato. E adesso ci fermiamo brevemente per un piccolo intermezzo musicale. Torniamo presto. Thank you. E dopo un breve stacco musicale, eccoci di nuovo insieme ad Alice Listuzzi per la pillola odierna. Per il 2022, quindi per il nuovo anno, ci sono degli obiettivi o comunque delle sfide personali, nello specifico, che ti sei prefissata? Ci sono magari anche ulteriori novità che hai in mente all'interno di questo progetto? L'obiettivo principale è quello di avere la prova tangibile che questo progetto può fare la differenza nei percorsi e nelle vite dei beneficiari. Quindi che tutta quelle serie di azioni che vengono messe in campo, concordate con la persona, possano veramente aumentare il benessere, ma anche che possano preparare la persona alla vita dopo la pena. Quindi, dire che questo progetto funziona intanto è la fase preliminare più importante e poi dopo, perché no, portarlo avanti anche capendo cosa cambiare, cosa migliorare, cosa implementare. Dici Alice, in che modo le persone diventano effettivamente beneficiarie di questo progetto Territori per il Reinserimento? Allora, c'è una prima fase di analisi, diciamo, degli assistenti sociali o educatori di presa in carico, dove rilevano appunto il bisogno delle persone e segnalano la persona all'interno dell'equipe esecuzione penale. E chi può segnalare sono il centro giustizia minorile e l'ufficio di esecuzione penale esterna e la casa circondariale di Bologna. E ci sarà una seconda fase in cui le segnalazioni vengono accolte, diciamo, da tutta l'equipe nell'equipe esecuzione penale che si tiene una volta al mese e una volta approvate, verranno, diciamo, prese in mano proprio dall'equipe del progetto Territori per l'inserimento e di conseguenza poi in base al bisogno della persona verranno, diciamo, portate a termine. Quindi, ad esempio, se la segnalazione è quella di un sostegno educativo, l'educatrice di riferimento contatterà la persona e porteranno avanti il percorso che avevano concordato. Oppure se c'è, ad esempio, una richiesta di accoglienza in un alloggio, si inizierà l'accoglienza vera e propria nell'appartamento, nell'alloggio che si è deciso più consono, diciamo, per la situazione della persona. E anche oggi la pillola quotidiana è terminata. Ci teniamo a ringraziare personalmente Alice Listuzzi per la disponibilità per partecipare a questa pillola. Noi ci rivediamo la settimana prossima con nuovi ospiti speciali e un nuovo argomento di cui parlare. Buona giornata. Ben ritrovati, come al solito siamo giunti ai saluti di fine puntata e vi ricordiamo di iscriverci a redazionaliberidentro@gmail.com. Non prima di lanciarvi le nostre rubriche a seguire, abbiamo il documentario di Paolo Aleotti girato a Bollatti, Sogni dietro le sbarre, e poi a seguire Interviste sostenibili di Danilo Cinti. Questa volta la rubrica porta il titolo L'importanza dell'educazione ambientale, con l'intervista a Matteo Pompili. Un saluto sempre da me, che sono Caterina, da Antonella Cortese, dal nostro Enea Flacco e dalla nostra tirocinante di redazione, Diana Bota. A domani, grazie. Liberi dentro Eduradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città. Sai cortina.